Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya benim koca dayım dediğim Nusret Sunerci'min pek sevdiği Tony Dallara'nın şarkıları konuk olacak. Antonia Lardera ismiyle Campobasso'da 30 Haziran 1936'da dünyaya gelen İtalyan şarkıcı, ressam ve televizyoncu Tony Dallara, 4 erkek ve 1 kız kardeşin en küçüğüydü. Milano'da büyüdü. Okuldan sonra önce barmen, sonra katip olarak çalışmaya başladı ama müziğe olan tutkusuyla Rocky Mountains grubunda şarkılar söylemeye başladı. Rocky Mountains grubu daha sonra adını I Campioni olarak değiştirecekti. Şimdi biz Tony Dallara ve I Campioni'den önce L'autunno non è triste, arkasından da 1958 yılından Un tantillo e core'yi dinliyoruz. L'autunno non è triste insieme a te. L'autunno è primavera insieme a te. Perché negli occhi tuoi c'è sempre il sole, caldo e gentile, che splende per me. Le foglie gialle dai riflessi d'oro per me son rose come il nostro amor. Perché per questo amor che non ha inganno anche l'autunno è bello insieme a te. Cerco sulla mente, no tantillo e core, me basta sulla mente, no tantillo e te, so cento notte che io te vaso dinto suono. Ma è nata cosa se tu stai vicino a me? Stavo cai come fuoco e me fa paura, e forse a poco me farà bruciare. Ma vorria una promessa d'amore, un vasillo a secusa per me, con un tantillo il cuore, con un tantillo e te. tavo cae como fuoco e me fa paura e forse a poco me farà bruciare. Ma vorria una promessa d'amore, nu vasi lo azzecuso per me, cunu tanti lo cuore, cunu tanti lo e te. La tuna non è triste ve un tantillo cuore dinledik. Tony, Frankie Lane'in ve her şeyden önce o zamanlar tüm dünyada başarı elde eden The Platters'ın hayranlıydı. Ve Tony Williams'ın şarkı söylemesinden esinlenerek İtalyan melodik repertuarına Only You gibi şarkı söylemeyi o soktu. Aynı dönemde I Campioni ile birlikte Milano'da Santa Tecla başta olmak üzere pek çok gece kulübünde sahne almaya başladılar. Ve böylece İsviçreli ünlü müzik yapımcısı Walter Gürtler'in yolu Tony ile kesişti. Ve ilk 45'liği Come Prima'nın böylece yolu açıldı. Gürtler ayrıca pek de müzikal kabul edilmeyen Lardera soyadını bırakıp ona sahne adını da hediye etti. Tony Dallara. Şimdi önce Only You, arkasından da Come Prima'yı dinliyoruz Tony Dallara'dan. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you can the make of us changing me. Far is true, you are my destiny. When you're my end, my understand the magic that you do. You are my dream come true, my one and only you. The magic that you do, you're my dream come true, my one and only you. amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Radyonuzdaydı. Come Prima 1957'de piyasaya sürüldükten sonra sadece İtalya'da değil, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa genelinde çok büyük bir ticari başarı yakalıyor. Sadece Belçika'da 300 binin üzerinde satan bir 45'lik. Ve zamanla da kendine ölümsüz İtalyan eserleri arasında sağlam bir yer ediniyor. Bu başarının arkasından Dallara askerlik görevini yapıyor. Ve çok üretken bir sürece 58-59 yılları arasında yine ölümsüz eserler diyebileceğimiz pek çok başarılı 45'likleri yayınlamaya başlıyor. Şimdi bunlardan önce Brivido Blue'yu, arkasından da Ghiaccio Bollente'yi dinliyoruz efendim. Sfiora il tuo ricordo e sento un brivido blu. Forse tu riderai e quel che sento non capirai, ma è proprio colpa tua se provo un brivido blu. Topolini che piangono, sognando te vedo farfalle volare e trovo il mar con mille vele in fondo al mio bicchiere di gin. Chi sei tu? Non lo so, ma nei miei sogni sempre ti avrò. Sei come un'atmosfera che dona un brivido blu. Pensando a te sono topolini che piangono, sognando te vedo farfalle volare e trovo il mar con mille vele in fondo al mio bicchiere. Sei come un'atmosfera che dona un brivido blu, che dona un brivido blu. ciò bollente sei tu. Odio il tuo gelido sguardo, ma se soltanto ti guardo, un desiderio di vampa nelle vene, sei la mia febbre, vivo di te. Ghiaccio bollente sei tu, e nei tuoi occhi di cielo guizzano fiamme nel cielo, come scintille di sole sulla neve, sei la mia febbre, vivo di te. Bollente sei tu, sei come un'alba di nebbia, un'atmosfera che inebria, ed ho bisogno di te, solo di te. The Blue ve Ghiaccio Bollente radyonuzdaydı. Bu 58-59'daki hızlı dönemden iki romantik, biraz kalbi kırık aşk parçasıyla devam ediyoruz. Önce Julia, arkasından da Non Partir'le Tony Dallara, şimdi radyonuzda. È legato al dolor, Giulia, amarti e comprenderti mi è stato difficile, perché strana sei tu, Giulia, del mio amore non ridere, non sciupare così il ricordo che avrò di te. È stato difficile, perché strana sei tu, Giulia, del mio amore non ridere, non sciupare così il ricordo che avrò di te. Giulia, amarti e comprenderti mi è stato difficile, perché strana sei tu. Cosa che avrò di te. partir, non partir, forse tu, forse tu. Vai lontano per cercare l'oblio, vuoi lasciarmi senza dirmi addio, forse tu. Che brucia e divampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancora nell'amor. Non parti, non parti, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire, non parti. Divampa nel cuore e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancora nell'amor. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire, non partir. Julia ve Non Partir dinledik Tony Dallara'dan. 1959 yılında Guido Malatesta yönetmenliğinde Memmo Caratenuto ve Raffaella Pizzo ile birlikte Agosto Donne Mie Non Vi Conosco ve Lucio Fulci'nin yönetmenliğinde Betty Curtis, Fred Buscaglione, Gianni Macchia ve Adriana Celentano ile birlikte de I Ragazzi dal Jukebox adlı iki filmde oynadı. Şimdi I Ragazzi dal Jukebox filminden önce Per un bacio d'amor, arkasından da A Squarciga olayı Tony Dallara'dan dinliyoruz. Per un bacio d'amor ti darò la mia vita, ti darò la mia vita e più nulla vorrò. Bacio d'amor ti darò la mia vita, è una gioia infinita, scenderà nel mio cuore per un bacio Gola, ti dirò che t'amo, ma sotto voce chiederò soltanto un po' di simpatia. Baciarti è un sogno che mi fa impazzire e lentamente mi farà morire di malinconia. Tutti di jukebox, nei dancing, nei bar, ovunque sentirai un grido di dolore, lì, proprio lì scoprirai il mio amor. A squarciagola dirò che t'amo, ma sottovoce chiederò soltanto un po' d'amor per me. Ormai è un professionista. A proposito, te l'hai dato i soldi? No, non ti preoccupare. E invece mi preoccupo. Prima di andare via bisogna pagare, se no non stampano. Si mancano 150.000 buoni da una lira. E allora? E allora pagherai il bilico. A squarciagola ti dirò che t'amo. A squarciagola ti dirò amore. La vita sei per... I ragazzi dal jukebox filminden Per un bacio d'amor ve a squarciagola dinledik Tony Dallara'dan. 1960 yılında Renato Rochelle'le birlikte Romantica şarkısıyla önce Sanremo Festivali'ni arkasından da Canzonissima'yı kazandı. Aynı yıl iki film daha çekti. Biri Domenico Paolella'nın yönettiği I Teddy Boys dalla Canzone. Bir de Piero Vivarelli'nin yönetmenliğini üstlendiği Sanremo La Grande Sfida. Şimdi biz önce Sanremo Festivali'ndeki canlı performansı dinliyoruz 1960 yılından Romantica. Arkasından da yine 1960 yılından Cinzia ile Tony Dallara şimdi radyonuzda. Con l'orchestra Angelini canta Tony Dallara. Sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella, bambina mia. Sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te perché sei come me, romantica. Nella realtà di un'altra età, tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol, come fai tu? Tu sei la musica che ispira la a te confiderò paradiso che ho baciato, c'è il paradiso che ho perduto e che mai più ritroverò. Romantika ve Cinzia'yı dinledik Tony Dallara'dan. 1961 yılına geldiğimizde yine Avrupa'da pek çok ülkede haftalarca listelerde birinci olan bir başka imzasını, ünlü yorumunu kaydetti. La Novia. Aynı yıl yine eşli olarak Gino Paoli ile birlikte Sanremo Festivali'ne Un Uomo Vivo parçasıyla katıldı. Yine Canzonissima'yı son büyük başarısı olan Bambina Bambina ile yeniden 1961'de kazandı. Biz şimdi La Novia'yı ve arkasından da Bambina Bambina'yı dinliyoruz Tony Dallara'dan. Bianca e splendente va la novia, mentre nascosto tra la folla, dietro una lacrima indecisa, vedo morire le mie illusioni. Là sull'altare lei sta piangendo, tutti diranno che di gioia, mentre il suo cuore sta gridando Ave Maria. Tu non puoi dimenticare, non soffri per me, anima mia. Là sull'altare lei sta piangendo, tutti diranno che di gioia, mentre il suo cuore sta gridando Ave Maria. Ave Maria. Tony Döller'e La Novia ve Bambina Bambina ile radyonuzdaydı. 1962'den itibaren Döller'e kendisine başarı getiren türü bir kenara bırakıp daha melodik bir müziğe yaklaşmayı denedi. Ama bununla o altın yılların satış başarılarını maalesef tekrar yakalayamadı. Hatta daha sonra 1964'te tabiri caizse San Remo kartını tekrar Come Potrei Dimenticarti parçasıyla denese de birinciliği kazanamadı ama finale dek yükseldi. Aynı yıl Un Disco per Estate'nin ilk edisyonunda Quando Siamo in Compagnia adlı şarkıyla katıldı. Burada da sadece ilk 10 finalistten oluşan ön listeye girdi. Ama bence bu her iki parça da pek güzel. O yüzden şimdi önce Come Potrei Dimenticarti, arkasından da Quando Siamo in Compagnia dinliyoruz Tony Dallara'dan. Come potrei dimenticarti dopo quei giorni passati insieme? Come potrei dimenticare i baci tuoi che davi a me con quelle labbra innamorate? Come potrei dimenticare le lunghe sere vicino al mare, quando perduta tra le mie braccia donavi a me, soltanto a me, i tuoi vent'anni pieni d'amore? Hai cambiato la mia vita e lo sapevi, ti avrei sofferto. Come potrei dimenticarti dopo quei giorni passati insieme? E se dovessi mai più vederti, ricorda che io t'amerò tutta la vita, tutta la vita. Siamo in compagnia, non guardar la mia ragazza, che cosa vuoi, che vuoi da lei? Lascia stare la mia donna, altrimenti faccio a pugni. Ti credevo un vero amico, sei soltanto un egoista, ho la sola verità, lo sai che ama solo me. Non sa nemmeno se ci sei, e se continui a far così, non rispondo più di me. Quando siamo in compagnia, lascia stare la mia donna, lascia stare la mia vita, sta lontano da noi due, le vuol bene solo a me. Se ci sei, e se continui a far così, non rispondo più di me. Quando siamo in compagnia, lascia stare la mia donna, lascia stare la mia vita, sta lontano da noi due, le vuol bene solo a me, le vuol bene solo a me. Come potrei ve quando siamo in campagna, dinledik. 1965 yılına geldiğimizde Un Disco per Estate yeniden bu kez Si Chiama Lucia ile katıldı. 1967 yılında da 15. Napolitan Şarkı Festivali'ne iki kıymetli eserle Jaguars ve Lala Leone ile birlikte Come a Destino e Fronne ve Tanti Tanti Tanti ile katıldı. Şimdi biz önce Si Chiama Lucia, arkasından da Tante tanti tanti tanti dinliyoruz. Si chiamava Lucia. Era la donna per me, si chiamava Lucia. Aveva gli occhi per me, si chiamava Lucia, ma ora non è più qui, ed io piango per lei. Io ti volevo per me, per tenerti vicino. Perché tu non credi a nessuno, ma adesso piangi anche tu, perché è finita così, e faccia finta di ridere e non pensare più a te. E qui si chiamava Lucia, non la potrò mai scordare, si chiamava Lucia. Ed io continuo così, con la mia solita vita. Si chiamava Lucia, ed io continuo così, con la mia solita vita. Tante passa nell'anno e chissà quando, quando, quando stai con me. Amore mio, oh sapatia, che quando prega, prega, prega, prega, prega, cari in tuo cuore, c'è sta un amore, c'è sta un amore che è stregato sulla me. Se io sono scena da montagna per chiamare, chissà perché non può venire tu un braccio a me. Se la luna e stella stanno insieme tutte sere, perché tu non puoi stare insieme con me. Passa le giorni, pare in eterno, e ne so tante, tante, tante, tante, tante. Passa nell'anno, e chissà quando, e chissà quando, quando cade un braccio a me. Insieme tutte sere, perché tu non puoi stare insieme con me. Passa le ore, pare di te, ne so tante, tante, tante, tante, tante. Passa nell'anno, chissà quando, e chissà quando, quando cade braccia a me. Si chiama Lucia ve tante tante tante dinledik. Bu hafta Itabella'ya Tony Dallara'nın söylediği şarkılar konuk oldu. Şimdi onun unutulmaz bir klasiğinin 1963 kaydıyla veda ediyoruz. Ben Cansın Sayesen. Tony Dallara'dan Norma Mia ile kapatıyoruz. Nusret Sünere günaydın. Hoşçakalın. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Mi basta una volta ancora averti vicino a me e dirti che io ti amo tanto tanto, ma resta un sogno che svanisce presto se tu non sei qui con me, Norma mia. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Mi basta una volta ancora averti vicino a me e dirti che io ti amo tanto, tanto, sogno che svanisce presto se tu non sei qui con me, Norma mia. Tu non sei qui con me, Norma mia. Norma mia.